caro Duccio, caro Duccio, buonasera. No, si è fatto con il Giro d'Italia. Sì, cioè, siamo arrivati presto, ma abbiamo fatto tardi. Come sempre. È una religione, d'altra parte, anche questa, quella del puntuale ritardo, se vogliamo. Sono le 21, passate da 6 minuti, siete sulle frequenze di Controradio e state ascoltando Ragnar Paisa. Dobbiamo aggiornare il bollettino delle persone che ci mancano? Sì, purtroppo sì. Quando penso ad Arnold, penso, vabbè, al telefilm che abbiamo visto tutti quando eravamo giovani. E pensi a te stesso cioè, quando ti guardi allo specchio. Però penso anche a che uso è stato fatto della faccia di Arnold dovunque, praticamente. Allora, l'abbiamo vista sui ritmi, sugli adesivi di ritmo. Ritmi degli adesivi. Però c'è anche un writers a Milano che appende in giro uno street artist appende in giro la faccia di Arnold. Che ho conosciuto anche, sì. Era un ragazzo, di Pergola. Era un ragazzo fortunato. E poi Dennis Hopper. E Dennis Hopper anche, vabbè, sono cose che capitano. Il corso della vita. Oggi ti vedo introspettivo e saggio, sarai così per tutta la puntata? Sì, ma dire. Primo DJ nella selezione di oggi, Biga, buon ascolto. Bring it back to life, back to reality. You walk a fine line playing with mine. The greatest story ever told in rhyme. We climax in 95. With them a raw rap, it's nine. The skin, all y'all cats alive. Take your time, don't rush the clock. Infamous rock for good years past. Like my thun's on lock, holding the pot down slow. But assuredly, spoon feeding these starving ass heads catch a shake fiendishly. Eyeballing this, word of shortness, probably recording this. Of course, kids, keeping their sights upon it. Exclusiveness, like some new type of kicks. They got the thing, Vic. Walk up past the wrong man in my clique. You get charged with intent to kick that boost. Welcome to the legs of this host. Yo, we the men for the operation, you know the MO. BB's warrior style, rare species. Catch us on your block or on your widescreen TVs. From Jones Beach to overseas, from over there, it's right back to the beats. Longevity and all the great grand CZ. Thank you. I rock the mic, writing exact, my life's my sacrifice. Take my mic and I'm like a Chinese man with no rice. Oh yeah, we flipping through the pages of time. Divine design, like Vaseline on the faces of black children, we shining. Deeper than petroleum jelly. We in the air like conversations on cellies. And just appear like stretch marks on bellies. After giving birth, you had to let go. And plan for life, the manifesto. It comes to be because I said so. Keep pushing, I got the cushion for the seed of your soul. Back in the day, they stole our smile. So we clothed our teeth in gold and we frontin'. From nigga to kid, to son to God is wild. Depending on labels for man, woman, and child. My style just is all that's seen and all that's heard. God gave us music, so we pray without words. So how tap we in constant meditation like a monk. While Kweli speaks in tongues to get your intellect drunk. Yo, we bound to take over the 90% of the brain that you ain't using. To us, it's life or death, we keep you choosing. Every shot I ain't sleep, every goodbye ain't gone. Ain't no rest for the weary or forever is on. The manifesto establishes some hip-hop order. Moving upon the face of the water, like reflection. Hey, yo, all the real MCs, meet me outside. So that can decide how we gonna change the tide. Like the moon, we on the earth, taking a ride around the sun. My son, we only just begun, and the journey's far from done. We on mission, what your brain gone fishing? Like Walter Mosley, there's an MC that can hold me. Supposedly, no one could come close to me. Only the family really know me. Hip-hop's last hope, like Obi-Wan Kenobi. Through your tunnel vision, I'm sharpening light like a train. Coming out like earthworms when it rains. Bringing it like the CIA be bringing in crack cocaine. Bailing out of planes with the George Bush connections. I push reflection like I'm selling ism. Like a dealer building a system. Supplying the demand, it's all capitalism. Niggas don't sell crack cause they like to see black smoke. Niggas sell crack cause they broke. My battle lyrics get conscious minds provoked. And ghetto passes revoked. Cause we surrounded by the evil. We know that the people's minds are feeding. They believe in it. Even if it don't make sense. This thing in dollars. Don't take a scholar to see what's going on around you. Either you with it or you ain't, is when it comes down. Have you forgotten? We're paying 100% designer name brand cotton. They still plotting. My third eye is steady watching. Every shot I ain't sleep. Every goodbye ain't gone. Ain't no rest for the weary. Thank you. television. All hell grand pixelated, got a fantasy murderscape and perspective. Fuck a sword channel, change digit. I sit with a nasty network intravenous plan with a staple diet of my cable pirate. Yo, the doctor is in, the doctor is on. Born a bastard son of static radiance cloned and welcome in every home. Let a blue screen bruise dream canopy. Victim of the cursed nurse, technicolor drunk support team. I love all advertisements, though accused by robot newscasters to capture and pollute spoon fed hazardous fog to joy like Catholic squad. Please calm me. Please make me a zombie. I wanna donate my brain to the monstrous Panasonic prophet. Now, 21st century plague, disperse the wide-eyed glamour addict patients, telecast patrons, blew me the propaganda banners. Well, sure I'll be a marine with a clean sword and blue uniform. It only takes a dollar and a plane. And I abide, great idiot, box power supply, fuzz vapor, plaque out of New York. Hey, honey, get the generator. I'm in a doom generation pacing. An electric secret, never sleeping to miss the AM oasis. A wired heart, sloppy obligation. Turn my stilt into my guilt. Inhabit shadow box, blame frame, adjacent station. Make reality scramble to suck the life out of a hidden vandal. And loving every minute of the gimmick, change the channel. Plug it in, turn it on, prop me up against the couch. Lights out, I ain't ever gonna have to leave my house. Satellite dish, get up on my wish list. Turn me to a tyrant, let my clean spirit dissolve through the appliance. Plug it in, turn it on, be my mother when she's gone. Great, wipe the spittle off my chitty chin during the breaks. If I gotta go blind, I'ma do it for the love of all television kind. That's fine, that's fine. Days are getting long. gotta get a scoop. I wanna spec. I wanna check. I want some leathers and a coupe and a house with a loop. That'll make you just gotta get a scoop. I wanna check, I wanna check. I want some spec, I want some spec. I want some leathers and a coupe and a house with a loop. That'll make y'all gotta get a scoop. I wanna check, check. I want some spec, spec. I want some leathers and a che avete sentito era Biga, quello che sentirete Bubu, che ci ha fornito il tappetino il per tappetino. Ricordarvi qualche appuntamento. Fattene dire subito uno prima che me lo Vai. Scordo. Allora, il 3 al Pop Caffè, giusto? Allora, Mille Lemmi. E Zach. A dipingere. Live. A dipingere. Serata si chiama Di Sogno e Disegno. Quindi il 3 al Pop Caffè. Al Pop Caffè di Firenze, Piazza Santo Spirito. Esatto. Com'è che si abbassa qui le cuffie? Suona bomba. Alzatele, non lo so. No, me le voglio abbassare perché mi sto stroncando gli orecchi. Lì c'è il... Questo? No, a destra. Vedi dove finisce il tuo spinotto? Sì. Il pippolo più a destra. Qua. Ancora? Eccolo. Ancora? Ok. Vai, ce l'ho fatta. Va bene. In diretta, per tutti voi. Duccio che si abbassa le cuffie. Ci sarebbe quasi da mandare un PayPal qui. Per avervi graziato di questa cosa. Deliziato di questa che cosa. Che Duval, dice qualcun altro. Invece il primo appuntamento che dobbiamo ricordarvi è per mercoledì prossimo, il 2 di giugno, all'Anfiteatro delle Cascine, Move Festival 2010. Noi cominciamo dal pomeriggio dalle 4, ingresso gratuito. Fino alle 8 Ragnar Paisa Crew, poi Numa Crew, Tuzzi, i due live del Move Lab e soprattutto i due ospiti internazionali della serata. Prima Kuli G, che suonerà verso le 11 e mezza. Ah, prima Kuli G, no? Prima Kuli G e poi Chris. Perché hanno fatto due conti con i BPM, hanno deciso così. No, perché mi sembrava ci fosse scritto prima Chris, giusto? Oppure... Comunque, programma finale deciso Kuli questo G. pomeriggio, prima Kuli G. E poi Chris. Che nell'intervista ha detto che suonerà soprattutto Deep House e Dubstep. E poi Chris, che invece accelererà, credo, soprattutto... Cioè, non è che Kuli G altre volte, cioè, suona la mazzurra. Abbia suonato... Cioè. Te l'hai intervistata? Adesso. Ah. Cioè, tipo mezz'ora fa. Ah. C'ha un'etichetta sua che si chiama Double Observer, qualcosa del genere. Sì, lei ha fatto uscire dei CD per Black Market. Mm-hmm. Si chiama Dub Organizer. Bravo. Esatto. Dub Organizer è il nome della sua label. Dub Organizer volume 1, esatto. Volume 2. So. Però adesso inizierà a stampare i singoli in vinile, pare. Sì, perché fino ad ora era uscito solo CD per Black Market. Il prossimo set è quello di Bubu, buon ascolto. Thank you. Thank you. Wine was invented by the Romans for orgies. The orgies are not too much fun. Live from New York. Is you watching with some of my motherfucking neck? Live from New York. Live from New York. Live from New York. Wow, son. Yo. All white wool on, the Ellie pulled on, kept his fade low, rock suede in the snow. Blue Tahoe, a wizard on the keyboard, eyes look bloodshot, Lord. Never mind that, climb the award in the system, we just missed him. Came through banging nothing but woo, the crowd blitzed him. Much love, autograph, current and champagne glasses. Crazy asses, niggas on his neck like ski masks. Chill Stephanie X, last threw a little 50 and crashed. I wanna drink, knew she pocket the cash. Bub summer night, hype, nigga, Iron Man, blowing the mic, you motherfucking right. Live highlight, then I seen him, nigga was raw, stepped in, bitches flexing next to him, bad Mexican. What up, showing you love, you got a real style, where you from the Al, that's that now, love, no doubt, oh God, he had a click about 100, some strange nigga, think he had a range, gone blunted, pay attention, it's a cinch like Sax and Max, he did the knowledge, ran to the bar and grabbed stacks, now the whole party bubbling, niggas got love in his bug, he had on one glove, rolling up drugs, him and his Vikings ran through, stop, play the back, then they walk through, live from New York, where niggas all cute money. And laced up, live from New York, getting me for the blaze up, live from New York, getting niggas live, dance up, yellow throw both hands up, won't pull the bands up, live from New York, getting money and laced up, live from New York, getting me for the blaze up, live from New York, getting niggas live, dance up, yellow throw both hands up, won't pull the bands up, live from New York, Madonna money in our pocket, boating in the rocket, about to blast off, we charge like a socket, whips be cleaner than a fuck, June's basically truck, straight up, Rolex style, laying in the cut, bottles, strictly dawn, bring me alarm, rollie on the arm, arms crossed, new sneakers on, fly shit, Nike's the majority, NYC, state of mind that we talk with authority, five boroughs of sterile, still out of town, playing mellow, I thought I seen Shalon sway yellow, whipping it, new six, flipping it, shorty is drip, dipping in it, when she sick, throw dick in it, came to conclusions, what's the solution when you're losing, respect mine, now from the foul line, streets is a part of us, teaching the seeds through the heart of us, some get locked, that's a scar on us, money and lace. Live from New York, getting reef with a blaze up. Live from New York, getting niggas who dance and yell and throw both hands up. Won't pull your pants up. Live from New York, getting money and lace up. Live from New York, getting reef with a blaze up. Live from New York, getting niggas who dance and yell and throw both hands up. Won't pull your pants up. Live from New York, getting money and lace up. Live from New York, getting reef with a blaze up. Live from New York, getting niggas who dance and yell and throw both hands up. Yeah. Io mai su un trono, mi siedo su una sedia non su un trono, combatto contro crono, il tempo sprono, sbrano bene un cancro, in sincro invado un cranio, scrivo rime con uranio, con denti di titanio, di lanio un cono, inclino un suono, malsano mi declino, brinda al declino di ogni tipo di confine, infine, seduto sul divano sogno che decapito veline, che volano come un volano, la TV è il veleno, si insinua tipo serpe in seno, sereno truppo una polmone, metto fumo nel polmone, sputo silicone su icone di ogni religione, arrivo da Plutone col flow d'un plotone, porto un yokai nel tuo salone, lì lascia l'alone, alone in the dark, sentiti un ostaggio delle FARC, non ha Luna Park, fuori piovono trademark, tutta quella merda chiusa in spot, stasera sembra buona, e quando apri la confezione il paradiso suona, sono spiriti del network, bad fellas, avvoltoi sulla carcassa, controllano frontiere di classe, dalla più alta alla più bassa, con cibo per consumo di massa, comprare rilassa, ciò che non ti uccide ingrassa, un altro, passa un altro giorno, un altro permesso di soggiorno, cumuli di merda mi crescono attorno, incubi notturni a turni tornano al mio interno, pitti primavera, estate, autunno, inverno, no, non c'è novità, combatto la forza di gravità, che quale qualità e quantità, qua non c'è unità di misura che rilevi l'entità che mi abita, l'habitat è il beat, high speed, fire come un drago che si agita. The law of the jungle. Eat or be eaten. Three men killed with tiny darts dipped in cobalt. Cruel, cruel, cruel, cruel, cruel. Brutal. Savage. Shocking. Those devils want to see me locked up in the prison cell. Big up per il Daretta nella selezione del Buon Bubu. Ne approfitto che sento un pezzo di beat a confronto. Yes. Per ricordarvi delle pubblicazioni il volume, nuove. Questo del volume di Bubu. Certo. Per ricordarvi che in settimana è stato messo il volume 2 di DJ Galessio. Quindi su www.ragnampaisa.blogspot.com voi trovate la puntata della settimana scorsa, tutte quelle passate. Quella di questa settimana, quella esatto. Di oggi la trovate da domani pomeriggio. Il volume 1, il di volume a confronto, il volume 2 e trovate anche il nuovo mix di Enough. Quello dedicato alla serata esatto. 40 Hz. Anche loro ospitano Kooli G, non il 2 giugno come noi a Firenze e a Roma, ma il 4 giugno assieme a Warrior Queen. Esatto. Una cantante reggae della vecchia scuola, adesso in forza all'Hyperdub di Codename. Se poi ce la faccio in settimana o tutto al più la prossima, metterò il volume 2 di Sassoni Overdose. Ok, che non ti sforzare che troppo. Che già registrato. Ti dovesse dare noia l'ernia, guarda. Ecco. Bene, io a questo punto andresti alla console, andrei alla perché console. Sarebbe il tuo turno. Poi chiudo io, un saluto di cuore al buon Tommy che siamo sicuri ci starà ascoltando da casa. Non precapigge forma, è fatta faccia, io freedom wall, te grida pace faccia perché l'acqua bolla mi esimura una casa toi, ma forse non tu guarda buona torna. Chi sta non è nu, trattata filosofica, al massimo poema trofica e non fa tutto comica. Già butta fatta parte santa un barabis, sta magna camunezza non può fare un stravista. Ma so cosa cagnere che la reazione a casa mi me trovo sembra sotto all'elezione. Con l'impegno per giovane e visto che si illumina e non può ste fatiche che le occurino. Le ricca post che le cattenga ma basta, e poi non c'è sta posta in tasta casta pa' mica. I cago cazzo pura mosca che mi passa sotto nas, e festa sempre in maglia là e non mi metti ras. E... bel finale panchettone per il tuo set, eh? Panchettone. Panchettone poi soprattutto. Con quella cresta che ti ritrovi d'altronde. Sì. E così siamo arrivati alle 22.11, il che vuol dire che ci manca l'ultimo set, poi arriva il radiogiornale, quello di mezzasera in edizione Flash da Popolare Network, e poi il buon Benedetto Ferrari. Con le farfalle a seguito. Quelle della collezione. Sì, sì. Che tu avrai visto sicuro perché ormai ci esci insieme. No. Tu, Prandelli, io e Benedetto Prandelli Ferrari. E Benedetto Ferrari. Quelle magliette d'altronde che indossi, eh. Senti, ricordiamo ancora una volta, non fa mai male, dell'appuntamento di mercoledì all'Anfiteatro delle Cascine dalle 4 del pomeriggio, perché è festa nazionale. Noi siamo lì a suonare per voi. Venite anche con la pioggia. Accorrete numerosi con le famiglie, possibilmente. Chi c'ha bambini porti i bambini, insomma. Chi c'ha le bambine porti le bambine. Già Bica mi guarda preoccupato perché... A un certo punto gli ho detto, quando suonerà lui mi affida Valerio a me, e si è già preoccupato, infatti. E ce lo credo. Bene, io vado in console. Buonanotte. Buonanotte. Real love like this. Yo. It's just passion, relaxing your essence. I'm testing your breath on the quest for perfection. Yes, it's a session, the flesh is a weapon. Kept in the box, I unlock what you slept in. Step in my zone and we gone to the sunrise. Upright position, reminiscing of the first time. You unearth my inner demon. Got me on lock now, I ain't leaving. Regardless of season, your reign is amazing. Changing my life, every word that you're saying. That's why I'm staying the night. The rest of my life will be spent in the bond so tight. Turn off those lights, come closer. Let me hold ya. You see bent out of shape, let me mold ya. Just how it's supposed to be. Let's be free, I possess that key. I've been waiting for a long time. You've been on my mind. Never thought I'd find love like this. We've been walking down this fine line, but it seems this time that we finally found love like this. I've been waiting for a long time. You've been on my mind. Never thought I'd find love like this. Real love like this. Let me grip up on your gluteus, studious, on the beauteous, booty tip, excuse me, miss. Come and give your boo a kiss and move to this, dismiss ludicrous rudiments for the smooth and slick. Review the Kama Sutra, we using it when we cool a bit. I'm perusing the grooves to have you losing it. Like we threw a fit, our two views connect. And the moon to dreams. Bitch. We'll be right back. skip all over. Stool, the way it repeats can trick you like a stuttering fool. Uttering butter king jewels, his mother been cool. Schooled her how to wash away the crud in the jewel pool. Made his chrome dome glisten. At first he couldn't tell she had a chromosome missing. Kept a spear somewhere in his underwear. He swear it helped her get the gum out of hair. They need to get their dumb out their rears and show some skills for one time they come out in years. Instead of dumbing out in fears of their own shadow. In a game that swell them up to dead them like cattle. Take your rattle and skedaddle before you get a whipping with the pen and pad paddle. Ghouls, not a modeling gear. He came with more rhymes than molecules in air. Land on each trip, indeed he rips scripts from here to Japan. Land on each trip, indeed he rips scripts from here to Japan. Land on each trip, indeed he rips scripts from here to Japan. Land on each trip, indeed he rips scripts from here to Japan. The track was like a thorn in his back. As for the rhymes, I give y'all fair warning, it's crack. Whoever start to smoke and come back, quit or catch a heart attack up in some bum shack. Sharper than a thumbtack. His body was a temple made of chemicals to the dimple. To him still it wasn't so simple. Kept his right and left hand beefing. One knocking beefing, the other one chiefing. But first, the song will make you wanna stomp your ten toes. Get a grip, leave it a dag mess for beer. Burning like a bag of swag that's in the air. Thank you. We'll be right back.